Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, una saga rossonera in piena regola, quella quarta serata degli europei, quella di ieri. Nell'ordine, un gol non dico fatto ma quasi fallito da Shevchenko nel primo tempo, poi un palo di Ibrahimovic scheggiato di testa sempre nel primo tempo, poi il vantaggio di Ibra con quel tocco sotto misura, poi la doppietta di Sheva che ha fatto impazzire non solo l'Olimpico di Kiev ma l'Ucraina tutta, e alla fine quei due sussulti d'orgoglio di Ibrahimovic che hanno mancato il pareggio di un soffio. Certo, i due gol di Shevchenko sono uno più bello dell'altro, perché sul primo anticipa il movimento di qualsiasi difensore, intuisce che finalmente arriva il cross giusto e si libera in volo come non sembrava più possibile, no? Per questo giocatore che da anni, adesso onestamente da anni sembrava un ex, e invece ha trovato di colpo una serata magica. Più bello ancora il secondo, perché è stato quel doppio movimento, tra l'altro proprio su Ibrahimovic che difendeva su calcio d'angolo, ha fatto un blocco senza che ci fosse il blocco, cioè si è mosso intorno come se ci fosse un compagno che gli faceva blocco davvero, e invece blocco non c'era. Voi penserete che questa è una sindrome Collovati, può anche darsi, perché un po' alla volta i danni da telecronache arrivano, però la sensazione è stata davvero quella, movimento contro movimento, e poi quella schiacciata tra ultimo difensore sul palo e palo stesso, e la palla che si infila ugualmente. Se potessi scegliere i miei sogni, ha detto Shevchenko, vorrei rivivere una giornata come questa. È un giorno fantastico, mi sento ringiovanito di 10 anni, e voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con me per 1 anno e mezzo, perché ho avuto così tanti problemi al ginocchio e alla schiena che non so come ho fatto, e posso dire grazie soltanto a loro. Molto bello tutto. Con la vittoria dell'Ucraina sulla Svezia si è conclusa la prima giornata degli europei, nel senso che tutte le squadre hanno giocato, e adesso vi ammollo un po' di statistiche di Franco Piantanita, che mi sembrano, le prime sono soltanto, come dire, rilevazioni statistiche, le altre sono delle considerazioni molto interessanti che partono sempre dai numeri. Intanto ha segnato tutte le squadre tranne due, l'Olanda e il Portogallo. L'Olanda era stato, con 37 gol, il miglior attacco delle qualificazioni. 8 gol su 20 di testa, compresi i due di Shevchenko, e la percentuale abbastanza altina. L'Italia, che ha posto fine a una striscia di 14 vittorie consecutive della Spagna, e con 15 sarebbe stato record assoluto per una nazionale. L'Italia anche che ha raddoppiato la produzione verso la porta di Casillas. In che senso? Nel senso che in Spagna-Italia del 2008, quel quarto di finale perso poi i rigori, l'Italia aveva tirato 3 volte solo in porta a Casillas, stavolta ha tirato 6, oltre ad alcune conclusioni finite fuori. E per esempio ancora l'ultimo italiano subentrato dalla panchina che riuscì a far gol in un europeo era stato De Agostini nel 1988 in un'Italia Danimarca 2-0. Per dire di quanto fosse ormai perdurante la crisi da gol, l'astinenza di Shevchenko, non segnava una doppietta in gara ufficiale con l'Ucraina da 8 anni, nel 2004 con la Turchia. Ma adesso, grazie a quei due gol di ieri sera, è il primo giocatore della storia degli europei a segnare una doppietta con più di 35 anni di età. Poi ce ne sarebbero tante altre, ancora una. Ibra è il quinto giocatore della storia a aver segnato in 3 differenti edizioni degli europei. Gli altri sono stati Klinsmann, Schmeisser, Henry e Nuno Gomes. Sentiamo una voce, sentiamo quella di Prandelli, che si proietta già sulla partita di dopodomani con la Croazia. Conterà di più, come sempre, l'aspetto sicuramente nervoso, l'aspetto fisico, e questi 2 giorni di allenamento, che saranno allenamenti veri, capirò quei giocatori che sono pronti per la partita importante, perché sarà la partita decisiva del girone, secondo me. Fra 3 giorni avremo una squadra completamente diversa, con pericoli secondo me maggiori, perché è una squadra imprevedibile, perché è una squadra che può cambiare da una partita all'altra, può cambiare da un tempo all'altro, quindi dobbiamo ancora, per forza di cose, arrivare ancora più preparati. Lui fa indaga, chiedo scusa per il microfono, su presunti casi di razzismo in questa edizione degli europei. Nessun procedimento disciplinare aperto, ma verifiche del governo del calcio continentale su insulti a Mario Balotelli e a Gebrselassie della Repubblica Ceca. Nel frattempo è stato designato l'arbitro di Italia-Croazia, che sarà Webb, l'inglese Webb, e quindi teniamoci forte, perché l'UEFA lo reputa uno dei migliori arbitri al mondo. A me basta ricordare come diresse Spagna-Olanda la finale degli ultimi mondiali per rabbrividire. Dopodiché, grande successo indubbiamente di questi campionati d'Europa da un punto di vista televisivo, perché la partita di ieri delle 6 Francia-Inghilterra è stata vista da 4 milioni e mezzo di telespettatori, che sono tanti considerando l'orario delle 18, ma addirittura si è arrivati a 6 milioni e 614 mila per Ucraina-Svezia, che non è esattamente un match di, non era un match di cartello, poi magari lo è diventato strada facendo per via di questa saga milanista che vi dicevo, ma insomma sulla carta non era esattamente così. Curioso il fatto che Nasri ieri, e lo si è visto chiaramente in primo piano dopo il gol del pareggio francese, si sia diretto verso qualcuno in tribuna urlando, se non degli insulti, qualcosa del genere. Lo ha spiegato lui stesso più tardi, che il bersaglio era un giornalista dell'Equipe, che poi insomma, si è confrontato col giocatore dopo, all'uscita dagli spogliatoi, e Nasri gli ha detto sì, erano proprio per te, per le tue critiche, per come hai trattato, eccetera. Insomma, questo solo per dire che non c'è suscettibilità soltanto dalle nostre parti rispetto alle critiche. Scevar ringiovanito di 10 anni, scrive Paolo da Udine, non ditelo a Gagliani che sennò gli fa un triennale a parametro zero. Gagliani ha altro da fare in questo momento, è a Parigi, o sta volando verso Parigi, dove è attesa entro domani la firma su un contratto di cessione di Thiago Silva al Paris Saint-Germain per una cifra assolutamente mostruosa. Torniamo in onda e troviamo un vecchio amico come Roberto Beccantini. Buongiorno Roberto. Buongiorno Gigi. Senti, che bella questa saga Sheva-Ibra di ieri sera. Davvero, è spuntata improvvisa nel contesto di un grande equilibrio. E a suon di gol poi come no? Decisivi, determinanti, assoluti protagonisti della partita, delle squadre, di tutto. Sheva 35 anni, Ibra 30, il Milan in copertina, e un risultato che discute interessanti scenari all'Ucraina, visto il pareggio fra Francia e Inghilterra. Certo, infatti nella giornata di ieri secondo me si è ripassato una volta di più come le etichette in fondo valgano fino a un certo punto. Uno guarda il calendario della giornata e dice no, non mi posso perdere Francia-Inghilterra per Ucraina-Svezia, pregasi ripassare. È andata al contrario come divertimento, direi. Assolutamente d'accordo, anzi la partita tra Francia e Inghilterra mi ha fatto venire in mente la famigerata, chiamiamola così, frase di Buffon: meglio due feriti che un morto. Sì, sembrava davvero così alla fine. Sembrava proprio così, è chiaro che in un contesto così delicato come il battesimo europeo ci sta molto, se non proprio tutto. E ho colto nella Francia questa tendenza al barcellonismo un po' deteriore, come sempre coloro che scoppiassero l'originale. Ecco. Non certo. So tu, ma questi torelli, questi frasetti. Sì, completamente. È vero che faceva molto caldo a Donetsk, ma insomma noto questa tendenza che si sta generalizzando e la trovo molto preoccupante in assenza di un Messi. Come lo era il sacchismo, no? Cioè niente contro Sacchi, ma era il sacchismo il problema, e qui niente contro il Barcellona, ci mancherebbe. Certo. Il barcellonismo una cosa da cui guardare. Ribéry, Nasri, questi se saltano il primo vanno a cercare il secondo, da dribblare. Arrivare agli eccessi, liberissimo poi di essere smentito, di Del Bosco che addirittura azzera le punte. Questo è vero che secondo me non è certo la quantità degli attaccanti schierati che fa la qualità di una squadra, di una partita di attacco, ma dovrebbe esserci modus in rebus. Ecco. Io continuo a pensare che ci abbia fatto un favore comunque Del Bosco. Assolutamente, soprattutto nel momento in cui noi arretravamo un centrocampista come De Rossi. Ecco. Non c'è dubbio. Senti, dato che le abbiamo viste all'opera tutte ormai, no? queste squadre, vediamo un po' se riusciamo a fare delle valutazioni comuni, oppure se invece, perché poi invece dal dialogo viene fuori anche di meglio. Io dico che qualitativamente Spagna-Italia è nettamente stata la miglior partita. Sì, penso anch'io che sia stata una delle partite più vivaci e quindi se escludiamo i petardi della Russia contro la Repubblica Ceca, sì, e anche un po' di Germania-Portogallo, laddove secondo me i tedeschi sono stati fortunati, non soltanto bravi, non dimentichiamo le due traverse del Portogallo e soprattutto la grande parata di Neuer nel finale, ecco, quindi il pareggio ci stava tutto anche lì. Sì, siamo in un momento di grande equilibrio, come peraltro emerge spesso dalle prime partite. Poi sono le seconde a essere cruciali, le prime partite strappano il sentimento, l'emozione, perché appunto è la prima volta di tante volte. Ecco. Sì, Italia-Spagna anche per la reciproca difficoltà, no, di affrontare una squadra così forte, più per l'Italia nei confronti della Spagna che viceversa, ma insomma cosa. Mentre invece è vero che la sensazione probabilmente più forte in assoluto l'ha data la Russia, almeno a me l'ha data loro. Sì, infatti la Russia di in passato, la Russia di Advocat adesso, non a caso di Italia olandese. Il problema dell'ex Unione Sovietica, dell'attuale Russia, Gigi, secondo me è sempre quello della continuità, non tanto della qualità. La qualità l'hanno avuta soprattutto in passato, non dimentichiamo che nel 60 vinsero la prima edizione, nel 64 arrivarono secondi dietro la Spagna a Madrid, nell'88 secondi dietro l'Olanda di Gullit e Van Basten. Il calcio dell'est è stato sempre ben rappresentato dall'Unione Sovietica e Russia, se non laddove la continuità avrebbe richiesto risultati più continui. Penso a quello che è stato, citavamo prima l'Ucraina, Kiev, il laboratorio di Valery Lobanovsky, che in parentesi lanciò, oltre che ad aver allenato Andriy Shevchenko, travestita da Unione Sovietica nell'86 in Messico, mi fece un'impressione grandissima, però non riusciva a raccogliere. Il problema è sempre quello. Una prima controprova è stasera con la Polonia, perché indubbiamente già questo, come dici tu, la seconda partita è quella che davvero conta, insomma, la controprova contro i padroni di casa di stasera. Esattamente, contro i padroni di casa, che non mi sono piaciuti affatto contro la Grecia, perché non hanno sfruttato l'uomo in più, e a fronte di un primo tempo altrimenti del quale ci sarebbe stato legittimo, sarebbe stato legittimo il loro vantaggio di concretizzato da Lewandowski, ma non trovai legittima l'espulsione di Papastopoulos, che per me resta finora il più grave errore commesso da un arbitro. D'accordissimo. È chiaro che poi la Polonia scomparve nella ripresa, mentre la Grecia ha trovato la forza per emulare, se vogliamo, la distanza, il Chelsea contro il Barcellona. Roberto, il fatto che sia la seconda partita, quella che se non decide quasi, riguarda anche l'Italia con la Croazia. Certo, e se contro la Spagna la tradizione, che non va in campo, ma secondo me un po' pesa, un po' conta sempre, vedeva gli spagnoli molto in difficoltà contro di noi, come carta canta, così siamo in difficoltà noi contro i croati, sembra incredibile, ma è così. Citando per esempio, a proposito del Trap, il 2002 nel mondiale coreano, quando venimmo sconfitti per 2-1, al di là degli episodi, o per colpa di certi episodi anche. Insomma, i croati li soffriamo, così come gli spagnoli soffrivano. Sono una squadra molto fisica, una squadra bagnolesca, quasi, in cui gli attaccanti tirano e i difensori difendono. Certo. E poi a metà campo hanno anche loro un pirlo, Mercerara, Modric, mi piace molto. Gran bel giocatore. D'altra parte, se l'Italia ha battuto la Croazia una volta solo nella storia, ed era il 42, no? Sarà un motivo, al di là delle scarse frequenze. Bravo, fermo restando che nel 42, insomma, c'era qualcos'altro a cui pensare, no? E valeva purtroppo sia per l'Italia che per la Croazia, valeva per tutto il mondo. Match clou, credo, della seconda giornata, con tutto il rispetto per gli altri, ho l'impressione che sia domani sera Germania-Olanda. Nessun dubbio su questo. L'Olanda mi ha deluso, perché l'ho trovata troppo legata incredibilmente ai solisti, cioè né calcio totale né calci totali, come fecero con la Spagna a Johannesburg. Né calcio totale, com'è questa? Né calci totali. Totale né calci totali. Ricordi la finale con la Spagna? Carina. Ecco, li ho proprio visti alla mercé del proprio solipsismo, dei propri errori di mira. C'è stato anche un errore arbitrale che avrebbe potuto portare a un rigore per l'Olanda nel finale, però al di là dei singoli episodi, come ci insegnano i sacchiani. Non i sacchisti, l'Olanda secondo me ha giocato male. Quindi, essendo sull'orlo del baratro, come si è sempre dopo una sconfitta in un contesto massimo di tre partite, immagino come scenderanno in campo contro la Germania, che viceversa potrà guardarli dall'alto della classifica e anche dall'alto di qualità non certo inferiore. No, no, certamente, questo no. Parliamo un attimo così di individualità, qualcosa che ci ha colpito. Io per esempio ho visto due, no, non che siano due sconosciuti, però insomma non proprio di primissimissimo piano, due esterni destri, uno meglio della, due terzini, facciamola così, che così parliamo e ci capiamo meglio. Uno, quello della Polonia, alla prima giornata, che giocano ai Borussia di Dortmund, mi pare, e uno anche il francese di ieri, Debussy, mi pare. Contesto di grande equilibrio, hai ragione, sono piccoli morsi di quei terzini che faticano sempre di più a salire, a fare le ali, capito? Noi che siamo nati con le ali, adesso li troviamo tanti terzini e pochi ali, è scomparso il dribbling per esempio, mi spiace molto, non che si debba vincere per forza dribblando l'avversario, però ogni tanto un bel dribbling uomo contro uomo non mi dispiacerebbe, per esempio Ribéry mi aspettavo qualcosa di più nell'uno contro uno, come mi aspettavo di più a proposito di terzini da Cristian, dal nostro Maggio. Maggio è reduce una stagione grandissima secondo me, però ha faticato molto contro la Spagna e già l'avevo visto in difficoltà contro la Russia nell'ultima amichevole. Senti, 8 gol di testa su 20 in questo primo turno, sono come percentuale altina, mi pare. Sì, anche perché i centravanti di peso d'antano sono sempre meno, dicevo della Spagna che addirittura ha rinunciato a un attaccante. Per cui certo, le situazioni su palla nativa, tanto per usare il lessico ortodosso, sono sempre importanti, sono sempre orientative dei risultati dei gol. Però insomma, 8 su 20 non sono certo una quota minima, anzi dirò di più che 20 gol, se non ho fatto male i conti Gigi, rispetto alle ultime due edizioni sono il massimo, perché nel 2008 furono 16 e nel 2004 17, insomma se non altro sul piano dei gol dei crudi c'è un leggero incremento. Almeno qui in Europa sale la produzione. Almeno... Sì, sono scomparsi gli 0-0 per ora, era uno nel 2008 ed erano due nel 2004, ma siamo appena al primo turno. Certo, riflessione finale, non si può dire, senza entrare nel merito e senza soprattutto far nomi, non si può dire che la RAI ci offra un grande spettacolo, quindi mi pare che il grande spettacolo sia quello che si impone da sé, e cioè quello del campo. Vedo molti messaggi che arrivano oggi, ma come anche nei giorni scorsi, come fate a commentare uno sport così corrotto come il calcio, pensateci un po' su, eccetera, questo lo scrive Andrea D'Ancona. Io credo che l'entusiasmo che questi europei stanno sollevando, comunque il consenso, numeri d'ascolto impressionanti, dicevo prima 6.614.000 per Ucraina-Svezia, che sinceramente sulla carta non era certamente un match di cartello, io credo significhino invece che la domanda di calcio rimane molto forte, rimane più forte ancora se è calcio credibile, se è calcio su cui sospetti non si possono avanzare. E proprio appunto, più c'è del marcio nella nostra Danimarca, più si spera che ci sia del pulito a Berlino, ecco, buttiamola così, capito? Per cui ci si butta sulla Champions, sull'Europeo o il Mondiale, se fosse stato il Mondiale. Sì. Per farsi la bocca. Con questa speranza, fermo restando Gigi che la formula proporrà nelle ultime partite inevitabili, non dico biscotti o torte, ma qualcosa di simile a quello che succede da noi a fine stagione. Vedi, io penso, spero ardentemente, io non ce l'ho fatta, ma spero che i giovani giornalisti del futuro ce la facciano, che un giorno il calcio italiano possa arrivare a reggere un finale come Manchester City QPR, 1-2 a 4 minuti dalla fine col QPR in 10, arriva la notizia che il QPR è salvo via radio come una volta, 3-2 per il Manchester City campione d'Inghilterra. Bisogna arrivare un giorno a far sì che appunto sia anche questo un nostro diritto. Campagallo, non ci resta che sperare. Sperare e batterci, soprattutto batterci per questo. Provare a batterci perché almeno le future generazioni arrivino lì. Appunto. Roberto, un abbraccio come sempre. Grazie a te, buon pomeriggio a tutti. Grazie. Arrivano le conferme, Galliani è effettivamente a Parigi per la conclusione della trattativa su Thiago Silva, per non darne l'occhio, per un soprassalto di pudore, forse non è partito col vassoio, perché quando ti offrono dai 40 milioni di euro in su per un difensore, per grande che sia Thiago Silva, in genere secondo me si parte col vassoio e il giocatore seduto sopra per essere sicuri che non cambi idea, però magari per evitare di essere troppo spudorato, invece Galliani intavola correttamente una trattativa. Due curiosità ancora che arrivano agli europei, curiosità statistiche molto carine queste. Ieri la Svezia ha giocato con 11 titolari che non giocano in patria ed è la prima volta che accade nella storia degli europei dal 60 a oggi, ed è l'esatto contrario di quanto invece succede per la Russia: 11 titolari che giocano soltanto in patria e oltretutto in tre sole squadre, lo Zenit, il CSKA e l'Anzi. Ho trovato in edicola stamane, volevo segnalarvelo, un numero da collezione di epoca dedicato a questa grande estate sportiva, cioè a una partenza dai campionati d'Europa per poi arrivare alle Olimpiadi. Epoca è per forza un numero da collezione, nel senso che Epoca è un glorioso settimanale italiano che non esce ormai da decenni e che ritorna però in edicola periodicamente con dei numeri, con delle edizioni speciali. Memorabile quella dello scorso autunno per ricordare Walter Bonatti, che fu tra l'altro una delle grandi colonne vere di Epoca, con i suoi reportage, con i racconti delle sue avventure. Stavolta ci sono grandi firme di epoche lontane che raccontano grandi personaggi dello sport, ma da Pelé a Cassius Clay, a Rocky Marciano, a Coppi, a Bartali, a Gigi Meroni, e in più ci sono tantissime foto olimpiche veramente godibili, che raccontano epoche direi molto lontane da questa. C'è molto giallo in tribuna, sto leggendo dal Corriere della Sera la rubrica di Macaroni di Luca Bottura. C'è molto giallo in tribuna, ha detto ieri sera Collovati, sorpreso, no, fa notare Bottura, del fatto che essendo gialla la maglia sia della Svezia che dell'Ucraina, avendo uno dei due dovuto cambiarla, questa sorpresa del giallo effettivamente è una sorpresa enorme. E la citazione subito successiva, i numeri parlano chiaro: 60% di possesso parla per l'Ucraina e, dopo lunga esitazione, molto meno per la Svezia. Questa è Paola Ferrari e la difficile arte delle sottrazioni di Rai Sport. Marco ha chiamato la provincia di Novara. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno. Sì, dica. Sì, una riflessione le chiedevo, Garanzini, le volevo chiedere. Non trovo giusto che gli allenatori delle nazionali possano essere di nazionalità diversa dalla nazionale stessa. Lei cosa ne pensa? Non penso, non lo so, non ho idea, non mi turba. Poi sì, a pensarci per bene fino in fondo, forse potrebbe, visto che di nazionali si parla, forse anche il tecnico dovrebbe essere rappresentante di quella nazione. E quindi tutto sommato, insomma, tra tante, no, che ogni tanto arrivano qua e ti piombano tra capo e collo, diciamo abbastanza inattese, questa mi sembra che un senso sinceramente ce l'abbia, e quindi la ringrazio di questa osservazione. Alberto da Brescia, buongiorno. Salve signor Galassini. Buongiorno. Buongiorno. Se anche non diceva chi chiamava da Brescia, già l'impatto dell'accento aveva detto tutto. No, ma non è grave, sia ben chiaro. Sono un bresciano doc. Sembra anche a me. Ascolti, io sono un tifoso per caso. Sì. Nel senso che io guardo l'Italia e mi emoziono quando vedo l'Italia. Premetto un'altra cosa. Ho vissuto con gli ex comunitari per 10 anni, pertanto non sono un razzista. Il mio, diciamo, connazionale, che potrebbe essere il Balotelli, ho visto che sta facendo un attimino. Io, se fossi stato io, le avrei un attimino anche tagliato quelle ali che ha leggermente prolungate. Anche perché quel ragazzo lì, ho visto oggi che è venuto con un orologio d'oro a fare show. Però non ha dato quello che effettivamente tutti gli italiani si aspettano. È entrato uno lì che era in panchina e ha fatto gol. Cioè, non so se mi spiego, io a questo uomo le avrei leggermente tagliato le ali, l'avrei messo un attimino sul buonismo e poi avrei deciso di metterlo dentro quando magari di farlo dopo un altro attimino, magari dopo altri 5-6 attimini poteva venire poi il momento di Balotelli. Grazie Alberto per il suo dotto intervento. Nel calcio tutti pensano di aver ragione, però chi deve prendere le decisioni siamo noi allenatori. Io penso di aver fatto la cosa giusta e l'ho decisa in base a quanto avevo visto negli allenamenti. Questo è Vicente del Bosque, selezionatore della Spagna, che essendo una persona di rarissima mitezza, già con una frase del genere, che peraltro è educatissima e non è certamente sopra le righe, già una frase del genere per lui è come se fosse una serie di punti esclamativi. E poi precisa, era previsto da giorni che giocasse Fabregas dall'inizio e per circa un'ora, ha svolto bene il suo lavoro. La squadra durante la partita è andata progressivamente migliorando e insomma spiega in pratica la sua scelta difendendola dalle critiche della stampa spagnola e dalle perplessità universali che effettivamente hanno accompagnato questa scelta di formazione. In Spagna tutti si sperano che venga finalmente schierato almeno un attaccante di ruolo contro l'Irlanda e la maggioranza, leggo da questa agenzia, la maggioranza si augura che tocchi a Fernando Llorente, il centravanti basco dell'Athletic di Bilbao, certamente non a Torres, almeno si augurano gli spagnoli, poi magari gli avversari gli spagnoli possono augurarsi invece che tocchi ancora al Niño de Oro. Dunque, Davide Ferrara, buongiorno. Buongiorno. Ieri sera ho visto la partita Svezia-Ucraina, secondo me migliore rispetto a Francia-Inghilterra, a dispetto delle attese, però ecco, diciamo, da tifoso del Milan ho avuto modo di fare questa osservazione qua, vedendo Ibrahimovic e Shevchenko, ho visto proprio, diciamo, l'aspetto, vabbè, sul piano tecnico non entro nel merito perché ognuno ha le proprie caratteristiche, però sul piano umano ho visto da una parte un atleta con un po' di malinconia, anche l'ho visto, che è Shev, ovviamente, che comunque un atleta pulito, insomma, per quello che può essere una persona che guadagna molti soldi, ma comunque una persona che si vedeva, ecco, che giocava, poi anche gli abbracci con l'allenatore a fine partita. Dall'altra parte il solito irriverente provocatore, ha avuto anche 2-3 scherzi con gli avversari, e quindi insomma è una riflessione ovviamente che faccio da tifoso, magari altri non colgono, però è palese, ecco, sotto l'aspetto umano quanto siano differenti questi due campioni, trattandosi comunque di entrambi i campioni, ecco. Sì, Davide, certo, senza esagerare, nel senso che quella di Sheva è stata una favola, quella di ieri sera, no? Poi io gli auguro di ripeterla anche nelle prossime occasioni, ma insomma è stata una tale resurrezione che ha assunto davvero i contorni della favola, oltretutto nell'Olimpico di Kiev, davanti alla sua gente, all'esordio della sua nazionale agli europei. Però insomma, se la mettiamo, ha segnato due gol, uno più bello dell'altro, veramente due gioielli. Detto questo, non è che quell'altro ha i soliti atteggiamenti da bullo, e certamente capisco che sia meno simpatico, però dato che ho visto anche molti altri messaggi precedenti al suo intervento che parlavano invece anche di efficacia, cioè la lezione, beh, lì ci andrei pianino, perché comunque Ibrahimovic un gol ha fatto, un palo l'ha preso e nel finale una sassata al volo, per sua sfortuna, è arrivata proprio esattamente davanti al portiere, che se no nemmeno l'avrebbe vista, e ancora all'ultimo minuto ha messo un assist in pallonetto a un uomo lanciato, che poi questo ha sprecato. Ma insomma, non è che Ibra non abbia fatto la sua parte ieri sera, l'avesse l'Italia un centravanti di quella statura internazionale, insomma, io credo che non guasterebbe. Nico, provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Vorrei un suo commento. Dall'inizio campionato mi sembrava che ieri ho visto una delle più belle partite dall'inizio. Cosa ne pensa lei? Quale? Quella della sera, dice? Sì, quella, cioè, di ieri sera, sì, perché certo. Io sono straniero, sì. Tipo l'Italia, però il cuore mi batte verso l'est. L'est. Sì, è stata una partita molto. È stata una partita sorprendente sul piano qualitativo, perché già non era stata affatto male nel primo tempo, e poi nel secondo è decollata ulteriormente e ha avuto questo picco emotivo in quei 12 minuti, mi pare siano passati da gol d'apertura di Ibra, poi alla rimonta doppia di Shevchenko, bellissima, non c'è dubbio, emotivamente. Se parliamo di contenuti, di emozioni, ma insieme anche di contenuti tecnici e tattici, mi pare che Italia-Spagna, diceva giustamente Roberto Beccantini, anche Germania-Portogallo, ma soprattutto Italia-Spagna, insomma, ha avuto un altro spessore, ecco, e non è che non sia stata divertente e emozionante a sua volta. Sentirei ancora Giuliano dalla provincia di Trento, buongiorno. Garanzini, buongiorno. Buongiorno. La sento sempre volentieri. Ho un piccolo vuoto sulle varie interviste che hanno fatte, e cioè su questa. Non ho sentito alcuna intervista del perché Balotelli si sia fermato in quell'azione, rallentato. Non so cosa ha risposto. Ha detto che non si è accorto del recupero di Sergio Ramos, molto, molto banalmente, perché è chiaro che se ne fosse accorto evidentemente si svegliava prima a tirare o a metterla in mezzo per Cassano. Non se n'è accorto, ha visto Sergio Ramos volare, perché è volato in effetti sul contrasto, e vedendolo a terra con la coda dell'occhio ha pensato di potersela prendere un pochino più con calma, poi ha esagerato e invece Sergio Ramos ha recuperato e ha approfittato di questo attacco di narcolessia di Balotelli, che ha aggiunto anche quest'altra perla, diciamo, no? al campionario delle sue improbabilità, e poi un giorno ne finirà pure, no? Almeno è quello che spera Prandelli, soprattutto se lo dovesse confermare. Sentiamo che cosa Nicola Filippone ha trovato nell'archivio degli europei per il 12 di giugno. Sembra ieri. 12 giugno 1988. Debutto sfortunato per l'Olanda di Rinus Michels, che perde di misura a Colonia contro l'Unione Sovietica di Lobanovskij. I tulipani, con un Gullit scatenato, costruiscono molte occasioni, ma trovano sulla loro strada il talento di Rinat Dasaev, capace di parare di tutto. Il gol russo arriva al 52esimo, con una conclusione rasoterra potente e precisa di Ratz, su cui nulla può Van Breukelen. Nemmeno l'ingresso in campo di Van Basten per Vanenburg cambia il corso della gara. Le due squadre si ritroveranno 13 giorni dopo in finale e il film sarà completamente diverso. L'edizione del 1988 è stata l'unica in cui la squadra vincitrice del titolo ha perso la partita d'esordio. Punto 75 è il numero di oggi di Nicola Filippone, che ricorda la media gol gara più elevata registrata nella quinta edizione Jugoslavia 1976, però allora si giocavano 4 partite, nel senso che il girone finale era a 4, non a 16 come adesso, e in quelle 4 partite, cioè le due semifinali e la finale per il primo e per il terzo, si segnarono 19 gol, appunto, in 4 partite, media 4,75. La media attuale, che comunque l'avete sentita all'inizio, è positiva rispetto alle ultime edizioni, è di 20 gol in 8 partite, e quindi mi pare sia 2,50 a partita. Alessio dalla provincia di Teramo, buongiorno. Buongiorno. Pica. È un piacere parlare con lei. Grazie. Niente, volevo dire, riagganciandomi al discorso della RAI, però purtroppo bisogna accontentarsi dei telecronisti, perché purtroppo ci abbiamo solo quelli. E con Sky non si riesce a, per quest'anno è andata così, nel 2000, fra 2 anni ascolteremo delle buone partite. Lei dice, per il momento ci accontentiamo. Grazie. Scrive Antonio Di Pollini invece nella rubrica di Repubblica, dedicata alla TV degli europei, dice: domenica ascolti mostruosi per la nazionale agli europei e a seguire ascolti mostruosi per la Formula 1. La prima è una manifestazione che, a detta del presidente uscente, la RAI segue probabilmente per l'ultima volta. La seconda, l'anno prossimo, la trasmette Sky. E poi ci si stupisce se la batteria RAI in azione non è vivace, piena di forze nuove e progetti futuri e investimenti. Questo oggettivamente è anche vero. E poi continua a dire: in ogni caso tutto ci si poteva aspettare nella vita, ma non di camminare un giorno per strada guardando su uno smartphone una rubrica video intitolata Le riflessioni di Amedeo Goria. Said da Ferrara, buongiorno. Sì, buongiorno Garantini. Dica. Senta, io vorrei tornare un po' sull'argomento Balotelli. Sì. a parte le critiche per l'episodio famoso del gol fallito, no? Però io penso in genere, no? Balotelli ha fornito una prova straordinaria tatticamente. Perché? Perché Balotelli ha tenuto impegnati due giganti, due signori difensori, come Piquet e come Ramos. E poi, tra l'altro, ha impedito e ha frenato anche Ramos, perché Ramos ha sempre il senso di andare a fare gol e andare a aiutare gli attaccanti. Lui l'ha tenuto col freno a mano perché Ramos non è mai salito. Quindi la presenza di Balotelli come un attaccante di peso, io penso che sia utile per l'Italia, anche per la conferma per la prossima partita, perché gli altri possono sovventare su Balotelli, ma non possono iniziare, perché De Natale è un bravissimo attaccante, ma non può svolgere il ruolo da attaccante di peso come Balotelli l'ha fatto fino a quando è uscito dal campo. Grazie. Grazie a lei, Said. Mi chiedo soltanto, quando Balotelli giocherà davvero una bella partita, lei come la definirà? Oddio, lei parla un italiano splendido, intendiamoci, superiore come qualità a quello di molti connazionali, però ha usato l'aggettivo straordinario per definire la partita di Balotelli. Se è straordinaria quella partita, io aspetto che ne giochi una davvero di alto livello, e poi mi chiedo appunto quale sarà l'aggettivo. Stefano dice: per me Balotelli stava già pensando a come non esultare. Ora, sembra una battuta, ma non so se è una battuta fino in fondo. Non vorrei che questo ignoto ascoltatore, ignoto fino a un certo punto, sì, ignoto perché non si conosce, però che sia firmato Stefano, non vorrei che in questo messaggio avesse davvero centrato, avesse davvero risolto questo enigma, che indubbiamente dalle cose erano le 19:15 circa, 19:10 di domenica sera, effettivamente un minimo di tormento te lo dà, no, tormento no, ma di curiosità te la suscita. Dici, ma cosa stava pensando Balotelli? Ma perché si è fermato a rallentare fino a quel punto? Forse, scrive Stefano, stava già pensando a come non esultare. E se non è fuoco, è fuochino comunque, non è acqua qua è fuochino, mi sa. Giorgio Verona, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie. Allora, intanto complimenti a Stefano, secondo me è eccezionale. Non è male davvero, sai che è questa, più passano i secondi e più la metabolizzo e meno mi sembra buttata là, mi sembra... Assolutamente. Tutt'altro. Bravo, no, Stefano. La mia era una critica leggerina alla regia televisiva, in quanto sta di secca del gossip continuo, porta molte volte a perdere delle azioni. Nel secondo tempo dell'Italia abbiamo visto molte volte la telecamera indugiare sulle facce di Prandelli, di Balotelli, eccetera, a volte perdendo diverse azioni, non dico importanti, sì, ma comunque in sviluppo. E quindi ritengo abbastanza assurdo. Forse è meglio che i nostri telecronisti, la nostra regia, vada un pochino a imparare meglio i nomi dei giocatori, cose sbagliate molte volte in altre partite, e cercare almeno la faccia o il ghigno di qualcuno. Sì, ma la ricerca ad ogni costo, la ricerca esasperata del dettaglio non nelle telecronache, nelle riprese televisive di oggi di una partita è assolutamente nefasta. A me mi fa inferocire ogni volta, proprio perché è il campo che conta. Cosa ce ne frega a noi della faccia che in quel momento sta facendo l'uno, l'altro ancora, o staccano in tribuna questi che si abbracciano? Ma chi se ne fotte? Se proprio il gioco è fermo, vabbè, io capisco lo stacco per dare lo stacchetto per dare un po' di colore, ma se uno sta seguendo il gioco, anche nei momenti di pausa, anche quando un giocatore a terra è infortunato, io comunque non sinceramente non vedo perché o vai a riprendere cenni disperati di un allenatore, di un medico, eccetera, cioè vai a riprendere qualcosa che documenta, che aggiunge qualcosa in più, allora un altro discorso. Richieste di cambi, segnalazioni, ma se soltanto invece, come lei appunto giustamente dice, per il gusto di colorire ad ogni costo, è un'inutile dispersione, riservata purtroppo, soprattutto in queste occasioni, al pubblico più universale, no? Che c'è, perché già gli europei sono un pochino meglio dei mondiali perché sono un po' meno nazionalpopolari, no? Hanno un po' più di sostanza e un po' meno di aria fritta intorno, però purtroppo anche l'europeo risente di questa tendenza. Andrea Pisa, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io stamani ho letto i giornali quotidiani e riguardo alla sfida, alla pseudo sfida Ibrahimovic-Shevchenko. Io ho sentito dire che Shevchenko grande 8, 9, 10, Poi io ho visto la partita, io ho visto un super giocatore da una parte e un bomber implacabile come Shevchenko. Ora, da qui a dire che Shevchenko è più grande di Ibrahimovic... Faccia Sheva che facciamo prima. Da qui a dire che è più grande di Ibrahimovic? Sì, certo. Andrea? Secondo lei è più grande Shevchenko di Ibrahimovic? Ma che ne so io, ma chi si permette di dire chi è più grande tra due attaccanti così? No, forse mi sono spiegato male. Ma no, si è spiegato benissimo. I giornalisti enfatizzavano questa cosa qui, che Shevchenko aveva massacrato. Io ho visto anche solo gli highlights, cioè, ha fatto due gol e basta Shevchenko. Beh, insomma, che comunque sono qualcosina più del minimo sindacale, due gol di quella bellezza, due gol di testa di quella bellezza. Ma la cosa è che uno era un desaparecido, è tutta lì la suggestione, dai Andrea, ne abbiamo già parlato, la suggestione è tutta lì. La sostanza dell'altro è indiscutibile, l'ho appena ricordata prima, cioè un gol, un palo, una grande parata del portiere e un assist sprecato, pur in una serata non divenne eccezionale, quindi il rapporto di forze attuale è quello. Ieri sera è successo una cosa suggestiva e per questo tutti ne siamo rimasti colpiti. Grazie a Matteo Comes in regia, a Franco Piantanini in redazione, a domani.